Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di innovazione nel campo del trasporto aereo, stasera più o meno un anno di distanza, in particolare di come i vari smart object stiano modificando l'esperienza di volo. Parliamo di tutti quei dispositivi che ormai proliferano nelle nostre tasche, così come nelle mani di sempre più addetti ai lavori, che sono costantemente connessi alla rete con una delle ormai numerose tecnologie wireless disponibili. Tablet, smartphone naturalmente, ma ormai anche gli occhiali. Ci sono molte sperimentazioni in corso con questi oggetti da parte di SITA, Società Internazionale di Telecomunicazioni Aeronautiche, che ora conta oltre 500 membri tra linee aeree, aeroporti, compagnie aerospaziali, eccetera, eccetera. Insomma, una bella fetta, direi maggioritaria di questo mondo. Per parlarci di alcune di queste novità ho intercettato al telefono, è difficile da trovare, Francesco Violante, che è amministratore delegato di SITA. Mentre lui era in giro per il mondo, io a mia volta mi trovavo in trasferta. Sentite com'è andata. E a Londra sta succedendo una sperimentazione molto interessante con la Virgin Atlantic e riguarda praticamente i passeggeri in business class che arrivano al Terminal 3 tramite la macchina di cortesia offerta dalla compagnia aerea, e questi passeggeri vengono accolti all'arrivo in aeroporto dal personale di terra, dalle hostess di terra, che sono munite di Google Glass o di Sony Smartwatch, e attraverso il Google Glass il personale riceve tutte le informazioni sul passeggero, il suo nome, la sua destinazione, le sue preferenze, e quindi lo accolgono con un servizio personalizzato ad hoc e lo accompagnano alle stazioni di check-in. Ecco, i Google Glass sono quegli occhiali, o gli smartwatch, ma insomma ci sono tanti nomi, sono quegli occhiali che sono connessi alla rete, per cui chi li indossa è in grado di ricevere delle informazioni, che vede in trasparenza, diciamo. Però perché i Google Glass in questo caso? Che cosa succede? Che questi occhiali particolari riconoscono il viso, il volto del passeggero che sta arrivando? Come funziona? Perché no, questa è una possibilità. Quello che succede è che sono collegati a un sistema di dispatching che invece di inviare documentazione cartacea al personale sulle caratteristiche del passeggero, in funzione del numero della macchina che hanno preso, con cui arrivano, riescono a dare informazioni sul passeggero. Ci sono altri esempi di utilizzo di questa tecnologia, per esempio per riconoscere il volto, come diceva lei, ma anche per esempio nei punti di check-in o di ingresso al gate o di controllo dei passaporti, per leggere e fare lo scanning del passaporto, per cui il passeggero non deve attraversare più il gate come era prima, e quindi viene dato l'ok all'ingresso in aereo. Sì. Quindi abbiamo parlato dell'accoglienza, saliamo a bordo a questo punto e troviamo l'equipaggio che gira con i tablet. Che cosa consentono di offrire in più in termini di servizio? Ci sono due aspetti dell'utilizzo dei tablet a bordo. Primo è, come diceva lei, un servizio migliore personalizzato in funzione del passeggero, dove siedono tutte le informazioni sul loro volo, sul loro itinerario, le informazioni sul loro profilo e per esempio se sono vegetariani oppure no, e quindi offrire un servizio personalizzato e agire a bordo in funzione di queste informazioni. Il tablet serve anche a ottimizzare le operazioni, perché nel mondo ci sono 750.000 personali di bordo, tra hostess, steward e così via. Queste persone, ognuno di loro è stimato che ha un average, una media di 15 documenti cartacei che portano a bordo, che devono compilare, e quindi questo costituisce un problema, perché è un peso prima di tutto, e poi ci sono dei tempi lunghi per svolgere queste operazioni. Oggi questo viene sostituito, tutto questo, da documenti elettronici che risiedono sul tablet. Noi tutti però siamo abituati che, insomma, se io salgo su un aereo, accendo il tablet, mi fanno un processo sommario e poi mi buttano giù dall'aereo. Invece improvvisamente parliamo di hostess che circolano col tablet acceso, ma in realtà ci sono già diverse compagnie che offrono la possibilità di viaggiare in aereo connessi a internet. Era un eccesso di zelo, non sapendo bene, diciamo, nel dubbio si teneva tutto spento? Sì, direi di sì. O è stato anche qualche passo avanti? No, okay. Entrambe le cose. Direi che c'è stato un eccesso di zelo, ma c'è stata anche un'evoluzione tecnologica per cui questi tipi di apparecchiature non costituiscono più un problema. Era la D di Sita, Francesco Violante. Noi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani.